Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Player One, get ready! Runtime Radio presenta Archeologia videoludica. Archeologia videoludica. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a questo nuovo episodio di Archeologia Videoludica, il podcast sui videogiochi, sulla storia dei videogiochi, che torna con calma ma con qualità. Meglio fare poche puntate ma buone, piuttosto che fare tantissime puntate e non avere niente di cui parlare. Questa sera con me, ovviamente, il nostro direttore commerciale, esecutivo, editoriale, quello che è, Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Carlo, non ti avevo aperto il canale, quindi puoi anche ridire ciao un'altra volta. Avevo detto un'altra cosa, però va bene, ciao a tutti allora. Ah, va bene, qualsiasi cosa che tu hai detto è andata perduta come lacrime nella pioggia, sappi questo. Insomma. Esatto. E ovviamente ogni tanto fa la sua apparizione con noi, perché è quello che legge libri, è quello che studia, è quello che un po' sa, e Carmine Puccio Console. Ed è anche la prima volta che viene ad Archeologia Videoludica. Ah, difatti, sai che è la prima. Sì, sicuro. Vado a segnare questa data. Sì. Te le sei fatte tutte così adesso? No, ti manca Archeologia Informatica. Archeologia Informatica, dai, a posto. Con Archeologia Informatica accendiamo l'Achievement Platinum Podcast. Puccio on Podcast. Ok, platinato Runtime. Carlo, questa sera abbiamo un ospite d'onore. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto il titolo di stasera, lo ripetiamo, lo sapete già perché è stato annunciato da Buon Simone sui nostri canali nelle settimane precedenti, ma stasera parleremo di Ultima, Richard Garriott e la Origin. E abbiamo, per parlarci di questi argomenti, credo uno dei più, senza paura di smentirmi, uno dei più grandi esperti al mondo, non solo in Italia, riguardo a questo argomento, ed è anche l'autore di ben due libri dedicati alla storia di Origin, di Richard Garriott e di Ultima. L'ospite è Andrea Contato. Grazie mille, buona serata a tutti. Buonasera e benvenuto in Archeologia Videoludica. Allora, senti, per introdurre il tema, Carlo, anche se non so quanto è appropriato fino a un certo punto, perché stiamo parlando di questo, aspettate. Ovviamente qui siamo molto in là con gli anni. Sì. Penso la penultima iterazione, no, della saga di Ultima Standalone, no? L'ultima 7, questo dovrebbe essere. E ho scelto la colonna sonora di Ultima 7 perché in realtà mettere la colonna sonora del primo Ultima non avrebbe senso. Però io la metto così in sottofondo, la abbasso, e da adesso in poi possiamo iniziare questa bellissima conversazione relativa ad Ultima, relativa a Garriott, a Lord British, relativa all'origine della Origin e via dicendo. E poi ognuno di noi magari metterà un po' le proprie esperienze, intercalando un po' ovviamente quello che ci racconterà Andrea, e poi ovviamente anche Puccio, insomma, farà le sue osservazioni, come abbiamo già detto. Se ci state ascoltando dal sito runtimeradio.it, ovviamente ci state ascoltando da lì perché altrimenti non avreste alternative, ricordatevi di cercare su Telegram dirette a Runtime Radio, e tramite questa chat potete anche interagire con noi, fare domande e magari aggiungere anche voi delle curiosità che vorreste poi che siano risposte. Io cercherò poi di selezionare durante la puntata e vediamo poi quello che succede. Allora, Carlo. Ma io direi che un argomento di questo genere, la cosa migliore è iniziare dall'inizio. quindi mi sembra appropriato, sì. Mi sembra abbastanza appropriato, e soprattutto anche perché molto spesso quello che meno si conosce è l'inizio, cioè cosa c'è stato prima di arrivare a questo grande successo che è stato Ultima. E quindi chiedo ad Andrea esattamente quando e come e chi era Richard Garriott e quando e come ha iniziato questa grande avventura che poi ha portato a costruire tutto quello che adesso conosciamo come Ultima e il grande e tutti i suoi seguiti e tutto il successo che c'è stato dietro e i spin-off anche. Esatto. Allora, prima di tutto devo darti ragione e contemporaneamente devo darti anche torto, scusami, ecco, se lo faccio. Sì, ma no, hai assolutamente ragione quando dici che è meglio iniziare dall'inizio. E quando invece dici che dall'inizio si sa poco, insomma, no, non tanto, perché comunque Garriott è una persona, personaggio abbastanza istrionico, che non ha mai disdegnato di raccontare di se stesso, per cui in realtà si sanno tante cose e che con l'andare del tempo, insomma, la memoria è quella che è, i fatti si mischiano e poi soprattutto lui ha sempre raccontato la sua visione della sua storia, le sue esperienze. Il mio lavoro è stato quello di andare indietro e verificare e soprattutto chiedere agli altri, quelli che erano accanto a lui, quelli che lo hanno aiutato ad arrivare al successo, perché non ci è arrivato da solo, chiaramente una persona di talento, ma ha avuto anche la fortuna di imbattersi in tante altre persone di talento, e se così non fosse stato non sarebbe arrivato dove è arrivato. E ho sentito tutte queste altre persone e mi sono reso conto che sì, tante cose si sanno, però mancavano quei piccoli particolari che poi rendono grande una storia. E insomma rendono giustizia alla storia di Garriott, che effettivamente è grande. E allora sì, dai, partiamo dal prima tessera di questo mosaico, perché stasera piano piano butteremo lì dei particolari che all'inizio sembrano essere abbastanza trascurabili, poi però ognuno in modo diverso concorre a creare questa immagine che altrimenti sfugge, insomma. Si scopre come alla fine certe strade nella vita si prendono per una serie di motivi che sembrano banali all'inizio, ma poi quando si mette tutto insieme, insomma, come quei giochi da settimana enigmistica, i punti da unire, no? E quando si mette tutto insieme salta fuori un disegno che era insospettabile all'inizio. Il primo tassello è la nascita di Garriott il 4 luglio del 61 a Cambridge nel Regno Unito, e c'era ancora nell'Inghilterra vigeva ancora lo Ius Soli, per cui chi nasceva in Inghilterra, benché avesse genitori di altra nazionalità, era inglese. E lui aveva genitori entrambi degli Stati Uniti, per cui questo gli diede la doppia cittadinanza, inglese e americana. Sembra una stupidaggine, e invece poi vedremo che non è affatto una cosa da poco. Durò poco, nel senso, la sua permanenza negli Stati Uniti, giusto per nascere, uscire dal primo periodo della neonatalità, diciamo, e già tornò negli Stati Uniti perché suo padre insegnava a Stanford. Altro piccolo particolare, insegnava a Stanford proprio negli anni in cui c'era un altro studente di Stanford che conobbe un gioco, Space War, nei laboratori di intelligenza artificiale di Stanford. Sto parlando di Nolan Bushnell, guarda caso, un nome a caso, uno dei primi che buttiamo lì. Fatto sta che comunque il padre di Garriott, Owen Garriott, era un insegnante di fisica. Ai tempi non c'era informatica, l'informatica era una branca dell'elettrotecnica, poi dopo divenne una materia a sé. Lui insegnava e fu anche promosso. Fatto sta che a un certo punto, altro piccolo particolare, nel 65 la NASA inizia a cercare docenti universitari, scienziati che poi abbiano le capacità e la determinazione per diventare astronauti. Lui sottopone la sua candidatura e lo accettano, quindi si trasferisce a Houston, dalla California a Houston nel Texas, vicino al controllo della NASA, quello delle missioni manned, le chiamano, quelle, insomma, con equipaggio umano, non quelle automatiche o radiocomandate, no? E inizia a fare tutto un percorso di addestramento che lo porterà nel 73 a partecipare alla missione Skylab. Rimarrà un mese nello spazio. Questa esperienza segna in realtà più il figlio che il padre, nel senso che il figlio vede il padre andare nello spazio e la cosa gli rimane lì, insomma è come se gli si accendesse una lampadina, no? Lo voglio fare anch'io, lo farò anch'io prima o poi, e guarda caso poi lo farà, quindi altra cosa. insomma, l'infanzia di Garriott è particolare, un po' perché vive in un ambiente ipertecnologico per allora. Cavoli, figlio di un astronauta, immaginiamoci che prodigi tecnologici aveva sotto mano. Sono, però è il suo ambiente naturale, per cui lui tende un po' a considerarlo banale, scontato forse anche, cioè per noi è incredibile l'idea di entrare nella NASA, per lui insomma che era da quando aveva memoria, aveva il padre che si allenava per diventare astronauta, lavorare alla NASA che sarà mai, no, tutti questi computer, insomma lui nel 75 inizia i corsi di Basic alla sua scuola media superiore e in realtà è già abbastanza dotato, perché sarà un po' l'ambiente in cui vive, lui i Basic, i computer già li conosce abbastanza bene, no? Fatto sta che il suo primo appuntamento con il suo destino, oltre al fatto di essere nato in Inghilterra, ce l'ha nel 77, quando lo mandano a fare un corso di perfezionamento, sempre in programmazione, un po' perché, ricordiamoci, i genitori di Garriott entrambi avevano grosse aspettative sul figlio, no? Immaginavano che sarebbe andato lontano, avrebbe fatto un sacco di esami universitari, si sarebbe laureato, tutti in famiglia erano laureati, il padre addirittura astronauta, professore, eccetera, e lo mandano a fare un corso di perfezionamento all'Università dell'Oklahoma, e qui lui conosce Dungeons and Dragons, è il suo primo incontro, entra in questo istituto dove dovrebbe imparare a programmare in Fortran, e in realtà cosa impara? Impara le regole di Dungeons and Dragons. Vabbè, questo è successo a tanti, però devo dire la verità. È successo a tantissimi, però a lui succede una cosa particolare che a noi non è successa, e che a lui è successa solo perché era nato a Cambridge, ossia quando arriva lì si siede attorno al tavolo con gli altri ragazzi che giocano, si fa un po' spiegare le regole. Una delle primissime cose che succedono è che lui saluta i presenti con un bel hello, ed è un po' particolare perché gli altri non salutano in maniera così, di questo modo. E quindi, siccome lui è nato in Inghilterra, in realtà ha accento texano perché è cresciuto in Texas, però è nato in Inghilterra, lo soprannominano Lord British. Questa cosa da una parte è sovrastimata, nel senso che in realtà il nomignolo glielo appioppano, ma poi lui non se lo porta dietro subito, se lo ricorderà molto più avanti. Per il momento lo lascia lì, lo mette in un cassetto, altro tassello del nostro mosaico. Sul momento lui, quando deve creare il personaggio, visto che insomma creare un personaggio di livello 1, che è già Lord British, è un po' ridicolo, si inventa questo personaggio, si immagina la sua bicicletta, una Shimano, e si inventa Shamino, fa una cambia una lettera, e questo è il suo primo personaggio, gioca un po', gli piace un sacco, e quando torna indietro dice: voglio portare un po' della mia esperienza di Oklahoma, lo voglio portare ai ragazzi di Houston. Insomma, torna a questi libretti di Dungeons and Dragons, si mette a spiegare a tutti e fa un bel gruppo di gioco. Tra l'altro, per chi conosce un po' la saga di Ultima, sono tutti nomi che ritornano, cioè lui già nel nucleo originale di gioco ha dentro un piccolo nucleo di quelli che saranno un po' i programmatori, un po' i personaggi della saga di Ultima. Per esempio c'è Robert White, che poi diventerà uno degli sviluppatori di Ultima 9, c'è dentro Chuck Bush, che diventerà cofondatore di Origin, e il famoso Chuckles, il giullare di corte, no? E c'è Kate Zabalaowi, che fra l'altro poi, oltre a diventare programmatore e aiutarlo a fare alcuni giochi di Ultima, tra cui l'infame Mount Rush, poi ne parliamo in dettaglio. quello Simone, non so se sai cos'è, ma è l'unica versione di Ultima uscita su VIC 20. Allora deve essere meraviglioso. Ultima è un po' azzardato, diciamo uno spin-off, non sì, so. Diciamo uno sfruttamento bieco del nome Ultima, ecco, forse del marchio. Sì. Comunque Kate Zabalaowi, non deridiamolo, perché ha firmato alcuni giochi di strategia negli anni 90 molto famosi, la serie V for Victory, non so se ve la ricordate, sì, strategia sì. Turno sì. Esagonale, la sua piccola compagnia e lui hanno programmato e hanno sviluppato questo gioco. Comunque, insomma, scusa se ti interrompo, sicuramente il gioco per VIC 20 non poteva essere peggio dell'ultimo, quello in 3D, che era il 9. Mi sa che invece era no, peggio. Ce ne sono diversi. No, cioè, no, no, l'ultimo proprio quello che alla fine non c'entrava proprio niente. Ascension, cioè, dici? Cioè, no. Che c'è uno degli ultimi che hanno fatto che era terrificante. No, l'ultimo che è uscito buggatissimo, vabbè, però credo che Andrea questa cosa la sappia meglio, meglio di noi. Insomma. Cerca Mount Dash per VIC 20, okay. E ultima Mount Dash su YouTube, tu guardi 2 minuti e capisci tutto. Vabbè, ma tanto no, già. Però guardalo, vale la pena, fidati. Lì è difficile parlare di Mount Dash senza accennare a cosa stava succedendo in quel momento, certo. L'industria nordamericana, a Sierra stessa, che per poco non finiva gamba all'aria. Però vabbè, magari stiamo un po' anticipando. Sì, andiamo per gradi. Abbiamo lasciato Garriott che gioca con i giochi di ruolo con i suoi amici di quartiere. Fatto sta che gli piace così tanto la cosa che decide di portarsela un po' anche a scuola. Nel senso che lui si porta sotto il braccio il suo quaderno nero, un vizio che poi gli rimarrà per tutta la vita, quello di annotare le cose, le idee che gli vengono in mente in questo black book e portarselo per ogni dove. E quando va a scuola è già lì che pensa, e qua mi ci rivedo un po' pure io, non so se capite anche a voi, quando a scuola invece di seguire la lezione pensa all'avventura che farà fare il pomeriggio ai suoi compagni di gioco, o pensa al suo personaggio che magari aveva lasciato il giorno prima in una situazione abbastanza pericolosa, no? E lì c'è il salto, no? A scuola lui è troppo bravo dal punto di vista tecnico della programmazione per i corsi che ci sono, e quindi si annoia e quindi dice: e se io proponessi ai miei insegnanti, invece di fare le lezioni noiose che non imparo nulla, di creare un videogioco, fare un qualche cosa? Succede questo, che propone questa cosa e lo accettano, e questo è un particolare abbastanza ridicolo, lo iscrivono nel suo curriculum come corso di lingua straniera. In realtà sta imparando ad usare un po' meglio il basic. E come mai non scrivono corso di lingua straniera? Non lo so, bisognerebbe chiederlo al principale lì, penso che in qualche modo dovessero giustificare il fatto che era diventato una sorta di progetto autonomo in cui si autogestiva, quindi dovevano scrivere qualche cosa, facciamo lingua straniera. Ripeto, siamo nel 77, quindi immaginatevi un po' anche voi che esperienza. È già bello che avessero dei computer a scuola, anzi, certo. Per essere precisi, in quella scuola avevano un mini computer, un PDP-11 della Digital, che era già bel computer del 77, era un computerone, era una bella macchina che costava un sacco di soldi, esatto, sì. E lui sviluppa su? Lui sviluppa in Basic la sua prima, su quale macchina? Su questo PDP-11, sì, okay. Utilizzando la sua telescrivente, la Teletype Model. La Teletype, modello 33. Ne ho parlato recentemente in un articolo. Se andate a guardare su Archeologia Informatica, trovate l'articolo che parla del PDP-11 e della Teletype, che fa un po' ridere. Un bellissimo articolo, tra l'altro. Esatto. Tra l'altro c'è una cosa molto interessante, se qualcuno di voi ha la curiosità, in questo preciso istante, da qualche altra parte del mondo, in Australia per essere precisi, un gruppo di pazzi, lo dico in senso molto affettuoso e con molta stima, è andato a tirar fuori un PDP-11, è andato a tirar fuori una Teletype Model 33, hanno tirato fuori interprete di Basic e stanno cercando, visto che hanno il codice sorgente di DND1, di cui adesso parlerò, e stanno cercando di farlo funzionare sulla macchina originale. Però si sono accorti che l'interprete che hanno loro non è lo stesso che usò a suo tempo Garriott, perché il programma, il codice sorgente che Garriott ha reso pubblico, non funziona, ha bisogno di essere modificato. Infatti hanno chiesto a Garriott: ma ti ricordi per caso che interprete usavate? Ovviamente Garriott non se lo ricorda, perché ovviamente non l'aveva installato lui, per cui certo. Comunque, dicevo, si mette a programmare il pomeriggio con il suo quaderno nero, prende gli appunti e poi la mattina successiva, quando ha tempo, va in laboratorio e digita su questa tastiera il codice, lo salva su questo nastro perforato, di cui conserva ancora una copia, un'altra l'ha donata fra l'altro ad un museo, e così nasce il suo primo gioco, DND1, lo chiama DND. Dungeons and Dragons. Esatto, con la N, attenzione, non la E commerciale, perché certo. Su Wikipedia, se andate, qua apriamo un capitolo. No, lasciamo perdere Wikipedia, che sappiamo bene. Sì. Fidiamoci spesso, delle ricerche. Sì, se no finiamo a parlare della crisi dei quarti di dollaro. Esatto, bravo, bravo. Succedono no, cose. Comunque è spesso è notato sbagliato D&D, no? È D&D, perché ovviamente non, la E non si poteva usare certo. Su questa tastiera per salvare... i file, non me le fa. File system non consentiva il salvataggio con questo carattere. E, insomma, programma il suo primo programma, quindi lo chiama DND1. Nel corso del tempo, insomma, ne fa tanti, ma quello che ci interessa sapere è che lui in realtà non è che si sia inventato chissà che cosa, perché alla sua volta si è respirato a qualcun altro, il quale a sua volta si è respirato a qualcun altro, e così via. E se andiamo indietro, alla fine torniamo sempre allo Space War di cui parlavamo prima. Ossia, nel 71 uno studente, Mike Mayfield, aveva giocato a Space War, e dopodiché gli era venuta voglia di programmare un gioco simile, però un po' più tattico, a turni, nel quale insomma c'era da prendere decisioni strategiche, non una cosa in tempo reale d'azione, no? E soprattutto lui era un appassionato di Star Trek, per cui esatto. ha cambiato l'ambientazione, chiaramente con tanta originalità lo chiamò Star Trek. Sì. La parte divertente è che per usarlo lui non aveva accesso al mainframe del suo istituto scolastico, quindi rubò un account, si mise a programmare su un Sigma 7 sempre in Basic e creò questo Star Trek. La Star Trek funziona così: ti fa vedere una mappa vista dall'alto, una mappa stellare, una griglia 10x10. Le astronavi aliene, che sono i Klingon, sono rappresentate da un K. L'Enterprise è rappresentata da una E maiuscola. Le stelle sono degli asterischi, e invece i settori vuoti sono segnati solo da dei punti. Ecco, questa è l'idea. Quindi l'interfaccia utente, diciamo, è stata ispirata da Star Trek, praticamente, nel primo D&D, e poi che l'interfaccia utente è proprio la rappresentazione della mappa con vista dall'alto e l'utilizzo dei caratteri semigrafici. Certo. Esatto, bene, l'idea è quella. Lui ovviamente poi la adatta al suo scopo fantasy, per cui al posto della K di Klingon abbiamo, che so, la G di Giant Ant, al posto dell'Enterprise abbiamo il nostro personaggio, non mi ricordo con che lettera fosse, molto male con che lettera fosse rappresentata, però potete voi a questo punto si va avanti, la O è l'orco, la T è il troll e così via, no? Certo. E i muri sono segnati da altri caratteri semigrafici, in modo tale che alla fine sostanzialmente il giocatore decide dove spostarsi guardando la mappa vista dall'alto, un po' come quando nelle sessioni di gioco di ruolo da tavolo si prende carta e penna e si disegna un dungeon visto dall'alto con la carta millimetrata o la carta a quadretti. Lui fece la stessa cosa, però non immaginiamoci che l'output fosse su schermo, perché non era così. L'output, essendo il suo dispositivo di input e di output, la telescrivente, l'output era su carta. Cioè, ogni volta che il giocatore faceva una mossa, il modem trasmetteva con i suoi 300 baud, trasmetteva l'input. Sì, lui racconta di 300 baud, poi però dice che ci volevano anche 20-30 secondi perché ritornasse indietro e venisse stampato completamente lo stato aggiornato del gioco. Certo. Per cui lui diceva avevi un FPS di 2 FPS al minuto sostanzialmente. Beh, tutto questo ridefinisce il termine long play fondamentalmente. Sì. Sì. Come giocare alla moviola. Vabbè, era come giocare a scacchi però su cap, dai. Comunque era già un qualcosa di assolutamente avveniristico, soprattutto considerato che si giocava tramite computer alla fine, quindi ed era la prima volta che succedeva per un Dungeons and Dragons con D&D di Garriott. Dungeons and Dragons è una bella domanda, potremmo dire di sì, ma in realtà è molto più probabile che la risposta sia no, perché Garriott per diversi anni ha ricordato di aver programmato il suo primo gioco, che poi ha commercializzato nel 79. Però recentemente, anche alla luce delle ricerche che ho fatto io, possiamo definitivamente spostare la data del rilascio, del primo rilascio di Akalabeth nella versione di Computerland, al 1980, un anno più tardi. Ossia, mentre prima c'era il dubbio che a Calabet insomma avesse avuto un'uscita in contemporanea al, al primo gioco della serie di Dungeon Quest Temple of Abshai, in realtà no, sicuramente Temple of Abshai è uscito un anno prima, ma in ogni caso non cambia nulla perché entrambi sono stati superati di un altro anno, Temple of Abshai di un anno, a Calabet di due, da un altro gioco che è Beneath Apple Manor del 78, per cui in realtà vabbè, poi ci sarebbe anche Dungeons and Dragons dell'Intellivision del 79 anche ma sicuramente prima ancora abbiamo Beneath Apple Manor di Davo, certo. Quindi intanto vi dico che io sono ipnotizzato da 20 minuti davanti al, al gioco per Big 20, chiaramente. Però voglio, è traumatico. No, vabbè, perché per me è un amore senza confini, quindi proprio si narrano momenti emozionanti di fronte a un Big 20. E no, dicevo che però facciamo presente che su GOG.com a Calabet, tra l'altro, è gratis, quindi se uno comunque volesse in qualche maniera sperimentare una cosa che però per i canoni di oggi è un qualcosa di assolutamente ingiocabile, però comunque come valore storico, come, come curiosità anche, insomma, se volete fatevi un account su GOG e potete tranquillamente, a parte tanti giochi di Ultima, della saga di Ultima, mi pare che siano, siano tutti. Sì, anche tutti. Ultima 4 è gratis, okay, non, sì, gli altri sono a pagamento. Ah sì, mi sa dal 6 Ultima 4 è gratis e un gioco di Wars of Ultima, non mi ricordo se Machine Dreams o sì, Savage bravo, Empire. Bravo, esatto, bravo, esatto, perfetto, sì. Savage Empire, sì, è vero. No, infatti se, se fate l'account ve li trovate già direttamente nella, nella biblioteca, insomma, quindi era giusto per dare questa informazione che magari qualcuno non lo sa e insomma, continuando poi questa storia, vi verrà comunque magari anche la curiosità, no? Di sperimentare quello che è ovviamente una parte importante della storia del videogioco. Prego Andrea, scusa. Eh sì. E poi se uno insomma vuole sperimentare e vuole avere anche un manuale sotto mano, io mi allargo un attimo e dico che il libro di cui abbiamo parlato prima è in vendita. Hai ragione, hai ragione, avremmo dovuto dirlo già all'inizio, in effetti. Piccolo spazio pubblico. Ma no, si fa a metà invece, perché se lo fa all'inizio la gente scappa. Bisogna farlo a metà quando okay, io, insomma, scusa. Alla fine è troppo tardi, quindi. Esatto, alla fine no, perché la gente è già scappata. Comunque citiamolo bene il libro, che almeno Prude Moonkit, parte 1 e parte 2 adesso è completo, è sul mio sito www.andreacontato.com e c'è anche un codice sconto fra l'altro per l'occasione, e porta in omaggio a voi altri che, che mi ospitate questa sera a Runtime Radio, da scrivere e vi dà un piccolo sconto. Ah, bellissima questa cosa, lo mettiamo nelle note dell'episodio, ok, grazie. Fine, adesso fate partire lo slogan, il jingle. Pam. Yes. Vabbè, ma è giusto. Andrea, ti posso fare una domanda visto che ci siamo? Allora, vai. Visto che sappiamo che Garriott è stato un Dungeon Master, diciamo, con un'esperienza e con una campagna più che ventennale con gli stessi personaggi, ho letto un po' di tempo fa. Secondo te, quanto dell'idea di fare il Master e l'esperienza anche con il D&D giocato via modem, poi lo ha spinto a generare il mondo persistente che è diventato Ultima Online? Ci è arrivato per gradi. Secondo me non è tanto l'esperienza che ha fatto nel giocare ai giochi di ruolo, ossia all'inizio sicuramente ha cercato di portare nel computer quello che riusciva a tradurre con gli strumenti che aveva a disposizione, quindi il BASIC, che vabbè, con tutti i limiti che ha, e le macchine che aveva a disposizione, di portare l'esperienza del gioco di ruolo nel computer. Poi però a un certo punto ha smesso di cercare di riportare Dungeons and Dragons nel computer e ha pensato di creare un gioco di ruolo nel computer, ed è un po' partito per la tangente, nel senso che si è inventato il suo mondo, ha cercato di dargli sempre maggiore spessore, ma è come se avesse riconosciuto che le due forme di intrattenimento dovessero avere una vita differente e che era inutile cercare di riprodurre nel computer l'esperienza del gioco dal vivo, perché appartenevano a due sfere di esperienze completamente diverse. Per cui io in realtà penso che lui abbia partendo dal quarto episodio della serie di Ultima abbia percorso una via completamente diversa, per cui in realtà se anche ha continuato a fare il Master, quello che faceva da master non aveva grande influenza in quello che faceva da sviluppatore. Se si guardano i capitoli dal quarto in poi, c'è una ricerca sempre maggiore di creare un mondo coerente, un mondo dotato di vita, e molto più di quanto non si cerchi di fare in un gioco da tavolo, anche perché insomma man mano che si trovava di fronte computer sempre più potenti, le potenzialità erano enormi. E non è tutta farina del suo sacco comunque l'idea di fare un mondo persistente come quello di Ultima Online, perché in origine erano diverse le persone che suggerivano che prima o poi ci sarebbe stato il salto qualitativo e tecnologico tale per cui sarebbe stato possibile creare dei giochi online multiutente. Il tentativo di Ultima Online, quello che è riuscito nel 97, in realtà è stato preceduto da tre altri tentativi. Uno di questi, spinto fortemente da DR Cat, un altro personaggio insomma molto, molto particolare. Ha fatto la versione per, 120, per Commodore 128 di Ultima 5, era lui, giusto? Esattamente lui, sì, per Commodore 64 128. Esatto. Sì, esattamente lui. Il quale fra l'altro prima ancora che Ultima Online vedesse la luce nel 97 aveva già deciso, aveva lasciato Origin e aveva già deciso di fare la stessa strada. Lui non l'ha fatta con altrettanto successo economico, Furcadia, però è arrivato prima, insomma. Comunque io, giusto per completezza di quello che stavamo raccontando, prima abbiamo saltato un pezzettino che mi sembrava molto importante invece citare, cioè il passaggio di quello che è successo da quando ha fatto D&D a quando è arrivato a fare Acalabeth. Ah no, ma certo, non ci siamo neanche arrivati, sì. Lui... Esatto, sì, lì sì, abbiamo saltato a più pari e magari è meglio riprenderlo. Sì, eravamo arrivati al fatto che Mike Mayfield aveva giocato a Space War e aveva creato Star Trek. E Garriott, assieme a White, il suo amico, avevano giocato a Star Trek nei computer della NASA, sui computer della NASA. E quindi, insomma, l'esperienza lo aiutò quando si trattò di fare le prime versioni su D&D 1, no? Se essendo un programma scolastico, per un paio di anni continuò a migliorarlo fino ad arrivare, dicevo, a D&D 28, che era l'ultima versione. Dopodiché la scuola era finita e lui andò in pausa estiva. Mm-hmm. E in realtà era l'anno in cui poi sarebbe passato all'università. Quindi sta parlando, se, estate del 79. 79. Estate, okay, del 79. E nell'estate del 79, che poi è l'estate in cui esce Apple 2, Apple 2 Plus, fra l'altro. L'estate del 79, sì, l'Apple 2 sì, era sì, uscito nel 79. Sì, sì, l'Apple 2 Plus. È importante questo perché lui ha iniziato a lavorare. Lui, il suo primo computer è stato un Apple 2, ma ha immediatamente fatto l'upgrade appena ha avuto i soldi, lavorando appunto quell'estate, appena uscito. Fatto sta che lui quell'estate è andato a lavorare in un negozio di Computerland. Già questo meriterebbe un altro piccolo, anche piccolissima parentesi. Il negozio di Computerland a Houston non l'aveva aperto una persona a caso, l'aveva aperto un ex scienziato sempre della NASA, John Prosper Mayer, assieme alla moglie Geraldine Couch, e si erano conosciuti tutti e due alla NASA. E Geraldine, sua moglie, fra l'altro, era un computer umano, cioè una di quelle tante donne che venivano addestrate per usare questi regoli calcolatori e fare calcoli complicatissimi ma in maniera molto molto veloce. John Prosper Mayer, altro inciso che ci fa capire che sorta di motore tecnologico fosse in azione in quell'area, ed è uno dei tanti tasselli che permisero a Garriott di arrivare dove è arrivato. John Prosper Mayer era praticamente il responsabile di quell'ufficio che doveva verificare la strumentazione e i dati in uscita dagli apparecchi delle varie missioni, insomma verificare che le cose fossero andate come si prevedeva, e nello specifico fu la prima persona a poter verificare, dati alla mano, che il volo di Chaiki Yeager, quello che doveva essere il primo volo supersonico, era davvero stato un volo supersonico, perché le strumentazioni di bordo davano un'idea abbastanza vaga della velocità a cui il caccia poi era arrivato, servivano i dati della telemetria a terra, e fu lui a mettere la firma su sì, abbiamo battuto la velocità del suono, l'abbiamo sfondata. Però la NASA era in crisi, taglia il bilancio, l'hanno licenziato, ha dato la buona uscita, e lui cosa ha fatto? Si è aperto un negozio di computer, che era la nuova moda del momento. Moda del momento. Eh sì. E dentro questo negozio del computer ci mise a lavorare un tizio che poi dopo conosceremo, un certo Kenneth Arnold, che aveva conosciuto una manifestazione di appassionati di computer del posto, no? Kenneth Arnold si era distinto perché aveva preso aveva costruito quello che si chiama il singing computer, l'aveva chiamato così, praticamente assieme a due suoi amici aveva insegnato a cantare al computer, cioè aveva preso semplicemente il suo computer, gli aveva attaccato un sintetizzatore e gli aveva fatto eseguire una piccola melodia. La cosa aveva fatto scalpore, ha finito sui giornali. Meyer lo conobbe dal vivo e gli disse insomma, sei bravo, vieni a lavorare nel mio negozio. Poco dopo disse la stessa cosa anche a Garriott, che cercava un posto di lavoro per raggranellare i soldi che gli serviva per comprare l'Apple 2 Plus, che non era proprio economico, diciamo proprio di no. Non aveva prezzi, le tradizioni che poi si spostano, esatto. Che strano, infatti, che strano. Chi l'avrebbe mai detto? Garriott va a lavorare e un giorno c'è Kenneth Arnold che va a buttare fuori gli scatoloni sul retro, incontra un tizio nuovo e fa: tu chi sei? Ah, io sono Richard, lavoro qua. Sta che Richard aveva in tasca sto gioco, sto D&D 28, e lo fa vedere ai suoi amici, no? E che gli dicono: cavoli, è bello questo gioco qua. E lo fa vedere, spinto, ringalluzzito, lo fa vedere anche a John Prosper Meyer, il quale dice: accidenti, questo gioco potrebbe avere un mercato, potremmo venderlo assieme ai computer. Fate conto che era 79, l'industria del software era, insomma, ai primordi, cioè, certo. Noi oggi tendiamo a pensare al fenomeno della pirateria dilagante, i CD copiati. Nel 79 eravamo addirittura oltre, 79-80 eravamo addirittura oltre, cioè normalmente i listati si scambiavano sotto forma di fotocopie, cioè il diritto d'autore sul software era qualcosa di quasi impensabile, era stato da poco regolamentato, fra l'altro, se non erro. America sì. Sì, negli Stati Uniti sì, noi purtroppo ci arriveremo 10 anni e passa dopo, sì. Però questo non impedì, per esempio, Garriott, sempre in quei pochi mesi, di copiarsi una cassetta della Muse Software, di un gioco fatto da Silas Warner, si chiama Escape, e di giocarlo, la copia non proprio autorizzata, diciamo, no? E lo giocò, e Escape è un gioco carino perché è un gioco labirinto, ce n'erano tanti allora, c'era anche Gacha di Atari, insomma erano di moda i giochi ambientati nei labirinti. Escape però non era un gioco di azione o altro, era un gioco di ragionamento, cioè metteva il giocatore in mezzo al labirinto e con alcuni ostacoli da superare e alcune informazioni da raccogliere per capire quale fosse la via d'uscita. Per esempio, si potevano incontrare delle persone che potevano dare delle indicazioni, ma queste indicazioni potevano essere vere o false. Potevano dare un lascia passare serviva per superare l'ostacolo che era la guardia che ti fermava, no? Insomma, era un gioco geniale. Quando arrivò copiato, ovviamente, nel laboratorio della Apple, anche lì fece una strage di ore lavorative perse. Poi dopo arriveranno giochi come Doom o altro a fare anche di peggio. Però, insomma, nel 79 era un gioco di moda. Lui lo prese, lo giocò e vide per la prima volta un labirinto visto in soggettiva. E ragionando disse: ecco, questa è una cosa che manca al mio gioco. Il mio gioco è tutto svolto con la vista dall'alto, e se creassi un qualcosa di simile nei dungeon, come in Dungeons & Dragons, quando si entra nelle catacombe con questi lunghi corridoi, le stanze con i mostri eccetera, le porte, le scale, le botole, le trappole, però invece che farlo con la vista dall'alto lo potrei fare con la vista in soggettiva, come ha fatto Silas Warden in Escape. Prende il suo l'ultima versione del suo gioco D&D 28, ci butta dentro una sorta di subroutine sempre in Basic che genera questo disegno. In vettoriale, in wireframe, con queste righe, esatto, che sono lentissime a disegnarsi perché col Basic è un disastro, esatto. La velocità di esecuzione del programma è veramente da far cascare le braccia a terra. E praticamente quando il giocatore è nel mondo di superficie si vedono le montagne, gli alberi, i castelli dall'alto. Quando si entra nei dungeon, a quel punto è tutto in soggettiva, con i mostri disegnati davanti a te. Fra l'altro, divertente, nella copertina del gioco che verrà, lui scrive 10 high res monster, mostri in alta risoluzione, su 5 righe. Quindi 5 righe bianche. In realtà era la modalità utilizzata nell'Apple 2 per disegnare quella, certo, quella, sì, grafica, sì, la mixed mode. E certo, comunque lui crea questa cosa qua, dice: ma sono soddisfatto, lo chiamo D&D 28B perché c'è dungeon in 3D. lo fa rivedere a John Prosper Mayer e ha detto basta, questo lo dobbiamo produrre, fanne 200 copie e le mandiamo a tutti i negozi di Computerland della nazione. Garrett gli crede, spende un sacco di soldi, fa fotocopie, prende i floppy, li copia assieme a Kenan Arnold di notte, stanno su a farlo, fanno anche un'edizione in audiocassetta, cioè salvando su nastro, nessuno la compra, quella su nastro non la compra nessuno, un po' come l'MS-DOS su nastro, non lo compra nessuno. Quanto vale adesso quella copia? Non vale niente perché non esiste, non l'ha presa nessuno, quindi non... quanto non varrebbe, quanto verrebbe se qualcuno l'avesse comprata, penso un capitale. Esatto. Fatto sta che le mette una ventina di scatole in vendita, ne vengono vendute 12, lui a malapena rientra dalla scatole, spesa. Scatole, sacchetti alla fine. Sacchetti di plastica trasparenti. Ne vende 12, ci mette su anche i bollini 1, 2, 3, giusto per prendere tenere ecco, il conto. Per chi non sa come era fatta, era una specie di busta tipo quelle del frigorifero, con dentro il floppy disk e il manuale disegnato a mano, scritto con la macchina da scrivere, fotocopiato e spillato dentro. Sì, questo era lo standard del 79. Sì, assolutamente. 70. Erano tutti così. Più o meno, c'era anche qualche Lamuse e altre che le facevano già un po' più professionali, però diciamo che era abbastanza lo standard. C'era tutto un sottobosco di piccoli prodotti artigianali come questi, erano tutti così, infatti tutti con la stessa busta Ziploc. Fatto sta che esatto. Ne vende 12 e qua è una cosa divertente perché a distanza di tanti anni non si saprà mai qual è, come è andata davvero la storia. Fatto sta che ci sono due versioni di quello che accade, no? La prima versione è quella buona, che praticamente una copia viene comprata da qualcuno, passa di mano in mano finché non arriva in California, alla California Pacific Computer Company, dove c'è un tizio, Alvin Remmer, che sta lavorando per creare un network di distribuzione. Lo ha fatto perché lui vendeva software porta a porta con la sua macchina, quindi aveva tutta una serie di conoscenze e voleva sfruttarle per vendere i suoi prodotti. Si era messo, aveva arruolato insomma un big Bill Budge, che poi adesso lavora per la Sony, se non erro, che aveva fatto il Flipper 3D, insomma aveva fatto diversi bei programmini, bei giochi. E quando ad Alvin Remmer arriva in mano questo gioco, insomma tira sul telefono e chiama. Come fa a tirare sul telefono e chiama? Perché Garrett aveva messo suo nome e cognome e numero di telefono nel credit del gioco, no? Sì, per cui era facile trovarlo, no? Certo, ma lo facevano in tanti alla fine, quando la produzione era così piccola, mettevi comunque i tuoi contatti all'interno del gioco, col numero lui di telefono di casa. Lui l'aveva fatto con l'idea del, se hai finito il gioco e hai vinto, chiamami e dimmelo, no? E in realtà lo chiamò il tizio che lo voleva comprare il gioco. Questa però è la versione buona, poi c'è la versione cattiva. Ossia, il gioco venne copiato e finì di mano in mano, la copia pirata, negli uffici della California Pacific, dove Alvin Remmer disse, proviamo a comprare questo software e insomma, fa la telefonata, per il resto la versione uguale, a parte il particolare dell'acquisto della copia. Fatto sta che Alvin Remmer chiama Garrett, gli propone di commercializzare in maniera seria questo a Calabet, e qua succede un'altra cosa particolarmente carina. La prima versione di a Calabet, Garrett aveva scritto i credit, si era firmato come Shamino, il personaggio di Dungeons & Dragons. All'interno del gioco, a dare la missione al giocatore, però, era un altro personaggio non giocante, era Lord British. E Alvin Remmer ha il colpo di genio, purtroppo non gli è stato mai accreditato abbastanza, spero io adesso con il mio libro di riportare un po' di equilibrio nella forza, no? Alvin Remmer ha il colpo di genio e dice, non abbiamo nulla in contrario col tuo nome Garrett, non te la pigliare, e anche Shamino vabbè, però manca un po' di mordente, Lord British è più bello, suona meglio. Insomma, lo convince a soprannominarsi Lord British, e accreditarsi come Lord British, di togliere Richard Garriott, mettere solo Lord British. Quindi il software è stato fatto da Lord British. Lord British, incidentalmente, è anche il tizio dentro del gioco che ti dà la missione. Questo è un passaggio fondamentale. Fondamentale perché c'è proprio qualcosa di metafisico, per cui il giocatore entra nel mondo, poi dopo più avanti verranno elaborati i Moongate, che sono questi portali interdimensionali che trasportano il giocatore che si siede al computer, addirittura nella sequenza iniziale di Ultima 6 si vede il giocatore che sta seduto giocando sul al computer e poi sì me la ricordo e lì si apre il portale nel giardino ed entra nel portale e finisce nel mondo di Ultima. Nel mondo di Ultima lui è lo straniero da un altro mondo che è l'unica persona che può salvare il mondo virtuale del videogioco dalla distruzione o quello che è. E chi è il che lo conduce e gli spiega qual è la missione? E fra parentesi, esatto, chi è quel poveraccio che tutte le volte ha bisogno di qualcuno che gli salva, insomma, gli toglie le castagne dal fuoco. Lord British, che è il programmatore, che è il personaggio, che è Riot, diventa. Però questo è come è nato il nome Lord British, ma il nome Ultima? Il nome Ultima ha una storia alla Garriott, nel senso che poi quando dobbiamo fare un salto avanti, a Calabet ha successo e quindi fa un sacco di soldi e quindi viene in mente che magari potrebbe fare i bis, potrebbe fare un altro gioco, no? Allora si mette a lavoro con Kenneth Arnold e devono inventarsi un nome per questo nuovo gioco. Lui a Calabet l'ha tirato fuori così un po' dal cappello, perché è la storpiatura di uno dei canti del Silmarillion. Lui era un grande appassionato di Tolkien, per cui a Calabet viene fuori dal Silmarillion, però non può riutilizzarlo, già una volta insomma è pure troppo, due diventa pericoloso, per cui si deve inventare qualche cosa. Allora si inventano Ultimatum. Motivo? Perché è cazzuto, badass, cioè loro lo scelgono perché suona bene, non per particolare. Per gli inglesi soprattutto, forse sì. Pronunciata anche in inglese. Sì. Ultimatum. Ricorda quel latino, quella parola latina che loro per loro è strano, è qualcosa di magico, è qualcosa di... Gli piace un sacco, e allora partono e iniziano a programmare questo gioco. Poi a un certo punto arriva il momento della doccia fredda, perché prima di quando scegli un titolo, la prima cosa da fare è vedere se per caso qualcuno non l'ha già usato, no? Se vuoi registrare un brand, prima di tutto toccherebbe un po' guardare se magari non c'è già arrivato qualcuno prima di te. Loro non lo fanno subito, lo fanno dopo un po'. E quando forse fanno, era anche meno facile, no? Nel senso, oggi più o meno è più semplice vedere se puoi dare un nome a un progetto. Dovevi fare una ricerca più completa. Cioè, era un po' internet, era un po' più complicato. Esatto. Ma sai che comunque quando arriva il momento critico, mandare un'occhiata e si rendono conto che qualcuno, c'è cioè una grossa casa di giochi da scatola, una di quelle che è meglio non agitare, insomma, perché se ti portano in tribunale ti rovinano. Ricordiamoci che insomma la California Pacific Computer Company, il nome è più lungo di quanto non sia grande il bilancio, cioè, stiamo parlando comunque di piccole realtà imprenditoriali, per cui andare a toccare una compagnia più grossa che magari nell'industria dei video dei giochi in scatola, che è un'industria nell'80 i videogiochi erano insomma l'ultima industria arrivata del poveracci. Beh no, mica tanto. I giochi da tavolo, scusi, i videogiochi per computer erano dei poveracci. Per computer, sì. I scappati di casa. I giochi in generale avevano un boom mondiale mega galattico nell'80, ricordiamo, è l'anno di Pac-Man, c'era già Space Invaders, cioè stiamo parlando di un'industria multimiliardaria. I giochi per computer erano un sotto insieme piccolo sputato di certo. Ma sai che comunque scoprono che... Li facevo pure io i videogiochi, quindi insomma... Sì. Ultimatum era stato già utilizzato per un gioco ambientato durante la Guerra Fredda, il blocco sovietico contro il blocco americano, e insomma si combattevano a suon di ultimatum e di missili nucleari, per cui bisogna cambiare qualcosa. Con grande sicurezza texana semplicemente tagliano via l'ultimo pezzo di ultimatum e diventa ultima. Ops. Fatto. Via Doom, via. Problema risolto. Insomma, che ci vuole? Che ci vuole? Vabbè, questi grandi nomi nascono un po' alla dottor Cazzo, esattamente alla Cazzo. Vabbè, ma è nato così, ci sta anche. Come anche giochi come Final Fantasy, che è un nome per così. Dirlo io, che doveva essere l'ultimo e poi ne hanno fatti 26.000. Esatto. Final Fantasy, che poi vabbè. Che con l'ultimo ne hanno fatti diversi. Sì, pure ultima hanno fatti diversi, insomma, diciamo, e hanno fatto pure i vari Final Fantasy, però. Sì. Quindi no, esce no, questo certo. Ultima. Esce questo sì, ultima. In realtà no, aspetta, torniamo. Calmo Carlo, devi stare calmo. Esce l'idea di fare ultima, poi bisogna programmarlo. Il grosso problema di Calabet è che era tutto in Basic, perché Garriott nel 79-80 era fresco di scuola, aveva programmato Basic fino alla settimana prima. Quando ha comprato l'Apple 2 e poi ha fatto l'upgrade all'Apple 2 Plus, aveva sotto mano il dialetto della Microsoft dell'Apple 2, perché sì, vabbè, aveva i comandi grafici, la modalità alta risoluzione, modello schermo misto, quella, però sostanzialmente non aveva nulla di più a livello di conoscenze informatiche. Però il suo amico Kenneth Arnold invece sì, lui aveva delle conoscenze, perché lui, diversamente da Garriott, non era pieno di soldi, la famiglia non c'erano astronauti, per cui anche lui era appassionato di computer, però non aveva i soldi per comprarsi l'Apple 2, che ai tempi, ripeto, costava un po' una fucilata. E qua hai detto una cosa importante che forse bisogna far notare: Garriott è nato ricco, cioè non è che è diventato ricco, è nato ricco e poi è diventato ricco sfondato. Sì, esatto, comunque, però... astronauta povero non era, esatto. Cioè, quando poi con Acalabet ha guadagnato $150,000 con un solo gioco, lui racconta, e il padre ha detto: cavoli, però io $150,000 li guadagno in un anno e mezzo facendo astronauta, per cui insomma e cioè, il padre si è un po' rimasto male, perché il padre vedeva il figlio un po' come un mezzo fallito, perché non stava andando avanti, non si era ancora laureato, non aveva ancora lasciato l'università, però non stava andando bene con gli studi, iniziava un po' a tentennare, e lui vedeva che perdeva tempo col computer, no? Poi quando ha visto l'assegno ha detto: però forse insomma è l'esatto opposto di quello che racconto io, di qualcosa è successo in Italia. Stavo a pensare invece... la stessa cosa, guarda, esatto, sei esatto, l'anti-Garriott, esatto. Ma sì, era così, perché da noi in Italia, col fatto che non c'era questo diritto d'autore del software, alla fine i giochi te li copiavano, ti pagavano uno sputo e una lenticchia, quindi mio padre, quando vide che io con il videogioco che avevo programmato mi arrivò un assegno di ben 380.000 lire, disse: vabbè, vai a fare il dentista. Cioè tu di tuo l'assegno di Garriott, tu di tuo eri contento comunque, perché dicevo comunque sì, vabbè, io ero un ragazzino, ci facevo l'estate con 380.000 lire, insomma, esatto, io no, mi sono visualizziamo... comprato un po' di dischi, ero contento, tutto quanto, però il rapporto è questo, cioè da noi non è nata l'industria del software proprio per questo motivo, proprio perché a te sono arrivati 380 euro, capito? Cioè è colpa tua, non solo io, tutti quelli, no è colpa tua, sei tu che hai innescato sto meccanismo, capito? Cioè da lì si è creata una realtà alternativa e tuo padre giustamente ha detto: ma va a lavorare, a lavorare. Vabbè, scusa Andrea, noi ogni tanto digressioni. Allora, mi ricordo se Carlo la cita sta cosa, però mi ricordo mia moglie che ha fatto la tesi sul diritto d'autore, perché vabbè, allora io mi vergogno di dirlo, ma ho fatto giurisprudenza anch'io, cerco di nascondere questa cosa. Bravo, nascondilo. Io ai colloqui dei curriculum di cosa sì, sbaglia, errori di gioventù, però mia moglie, che in realtà poi la laurea l'ha presa, ha fatto la specializzazione, ha fatto la tesi sul diritto d'autore, arrivata alla parte sul diritto d'autore sul software e poi sui videogiochi, ha trovato questa sentenza dove i videogiochi venivano definiti passatempi per sfaccendati, esatto, non meritevoli di una tutela legale, no? Poi io sarà morto, cioè dico, il giudice che ha emesso quella sentenza, fargli vedere le cifre del mercato videoludico e dire: ma fai tu, fai te. Ce ne sono tanti. E pensa che eravamo già quasi negli anni 90 quando c'è stata quella sentenza. Ma torniamo 80, ad Ultima, che è il focus. Torniamo ai $150,000, perché hai fatto 300.000 lire, che adesso, esatto, farò un po' fatica. Ma al cambio era la stessa cosa, al cambio, eh? Sì. Beh, comunque $150,000 di allora, se li contestualizziamo, sono quasi mezzo milione di euro di oggi. Penso pure io, sì. Sì, quindi, più o meno. Per un compito scolastico. Cioè, tutti noi ovviamente avremmo voluto fare una cosa così a scuola e guadagnarci 500.000 euro. Perché siamo nati nel posto sbagliato. Sì, dovevamo nascere a Houston. Comunque lui, Kenneth Arnold invece non ha tutti questi soldi, lui insomma per comprarsi il computer deve andare a lavorare e deve lavorarci tutta l'estate, e alla fine non è che si può comprare l'Apple 2 che costa troppo, deve un po' ripiegare, e ripiega su uno di quegli apparecchietti un po' più economici, quei kit di assemblaggio che andavano tanto di moda prima che venissero soppiantati dai microcomputer. È un single board computer, com'è che si chiamano? Sì, sì, lo puoi chiamare un po' come vuoi, single board computer, developer board, cioè, tanti nomi, ma alla fine quello sono, cioè, quindi prende il... si compra il familiarizer, che è un nome che ti fa intendere che ti serve per prendere familiarità con il codice macchina, no? È prodotto da una ditta dell'Oklahoma, la ECBA, e costa $249. Siamo sempre lì, dovete moltiplicare per 3 per capire più o meno 3, 3 e mezzo per capire quanti euro sono, quindi comunque costicchia, non è una cosa da poco. C'ha il suo bel display digitale, c'ha 16 tasti esadecimali, qualche pulsante di controllo. Se puoi programmare, lui Kenneth Arnold racconta che persino l'assembler è troppo grosso per questa macchina, che ha 1 kilobyte di memoria, per cui devi programmare direttamente in codice macchina esadecimale. Infatti c'è questa tastierina qui, e la cosa bella è che non ha un dispositivo per salvare, per cui quando spegni la luce basta, togli l'energia, hai perso tutto e lo devi riprogrammare da capo. Insomma, è così piccolo sto coso che lui deve imparare a sfruttarlo al massimo, no? E quando poi finalmente riesce a comprarsi l'Apple 2, visto che il familiarizer è basato sullo stesso microprocessore dell'Apple 2, 502. Esatto, si sente un po' a casa sua ed è abituata ad usare risorse con molta parsimonia. Garrett d'altra parte sua invece col Basic lui ci sta largo, sprecava. No? Allora che Netanyahu gli tira un po' le orecchie e dice: guarda, che il tuo gioco non ti offendere, è bello, però se lo scrivessi in assembly sarebbe un po' più veloce, perché è lento. Decisamente. Garrett non la prende bene. Garrett dice che l'assembly è noioso, che a lui piace di più il Basic. Però allora raggiunge una sorta di accordo, per cui dice: facciamo così, io ti aiuto, ti scrivo la routine per gestire il codice macchina della parte della parte grafica del mondo di superficie, teniamo le tue routine per i dungeon, quindi quelle in wireframe con la grafica tridimensionale, i corridoi eccetera, insomma sdoppiamo un po' il programma e vediamo cosa ne viene fuori. Sta lì tutta, insomma, diverse settimane a lavorare. E poi lui racconta che Netardo racconta di una notte fatidica nella quale praticamente lui cerca disperatamente di spiegare a Garriott come mai certi colori non possono stare gli uni accanto agli altri, perché con la il famoso grafica... color clash della modalità dell'Apple 2, cioè. E Garriott non afferra immediatamente il concetto, per cui alla fine si mettono a prendere la foglia di carta millimetrata, disegnano le piastrelle, i tile della grafica che poi andranno a comporre, quindi gli alberi, i fiumi, l'acqua, i mostri eccetera, le città e tutto, li disegnano sulla carta millimetrata, trasformano in 0 e 1, poi convertono in esadecimale, tutto a mano, in esadecimale, considerando anche i colori e tutto il resto, e lui deve spiegare come mai un colore non sta vicino all'altro, e alla fine sbattono tutto sto popò dentro nel motore grafico che lui ha scritto per vedere cosa salta fuori. Vabbè, poi racconta di scene in cui ogni tanto il risultato grafico che appare ai loro occhi è orribile, nonostante tutta la fatica e le premesse, e quello che vedono a schermo è incomprensibile, per cui si ritorna al tavolo a ridisegnare, così ha fatto staccare che alla fine ce la fanno. E il passaggio è da Acrobat a Ultima 1, è che la cosa proprio che spicca subito agli occhi è che scompare questo mondo di superficie disegnato con 4 righe scritte in Basic, per cui lentissimo, ma c'è questo motore in assembly con questa grafica tile 20 piastrelle per 10 sotto la finestra di dialogo, rimane quella della modalità mista ad alta risoluzione, però insomma ci si sposta su questa superficie, si vede il mondo dall'alto con gli alberi, insomma con l'acqua pure colorata fra l'altro, no? Ed è un salto tecnologico notevole, perché altri giochi di ruolo così non ce ne sono su microcomputer, per cui insomma il dungeon sotto è lo stesso, ma il mondo di superficie è tutta un'altra cosa. Io faccio una piccola considerazione scema che non c'entra assolutamente niente, ma mi piace perché il Carlo la può capire. Io ho capito che la connessione per capire quali computer hanno questo problema del color crash, e il comune denominatore Stefano Paganini, praticamente. Cioè, tutti i computer che ci ha avuto Stefano Paganini tutti i computer di Stefano avevano il Color Clash, quindi bastava conoscere Stefano, vedere che computer lui aveva e non comprarli praticamente. Insomma, era questo. Questa è una digressione nostra interna, insomma, che... Vabbè, considera che la grafica dell'Apple 2 tra il 77 e il 79 era la migliore che potevi trovare sul mercato di quel segmento di computer che all'epoca si chiamavano personal, perché gli home, la definizione di home sarebbe nata qualche anno dopo. Mm-hmm. È vero anche che nel 79 iniziano già a uscire con personal computer come il Texas T99, l'Atari 800 eccetera, che iniziavano ad avere una grafica molto molto superiore, però il mercato soprattutto negli Stati Uniti in quel periodo era dominato dall'Apple 2, quindi anche per una questione numerica e di vendita, sì, sì, vabbè, era logico che molti sviluppavano su Apple 2. Ma è chiaro, no, vabbè, ma la mia era una stupidaggine così, giusto per spezzare un po' l'atmosfera, perché noi ogni tanto lo citiamo, il nostro amico Stefano, insomma, al quale vogliamo sempre bene, torna presto da noi, e mi raccomando, insomma, va bene, vai, prego, scusa Andrea. Ma la prima differenza quindi è questo motore grafico. Poi in realtà non è tutto lì, nel senso che in Akalabet, prima non l'abbiamo detto, ma siccome lui aveva usato il Basic, non aveva tanto spazio, tanta memoria che gli rimaneva. Addirittura per poterlo far andare bisogna avere l'espansione, la language card. A altri costi, perché non era economica neanche quella, le periferiche delle Apple 2 non erano economiche a priori, per cui, però dico, non bastava neanche avere il modello, non dico il modello base da 4K, che quello non so neanche quanti ne abbiano venduti, dire, non bastava avere un modello, un entry level delle Apple 2, bisogna avere anche espansione. Andrea, scusa, però già se è uscito nell'80 già il modello che c'era in commercio era già quello con più memoria. Sì, però lui, intendo dire, lui aveva programmato prima, quindi lui prima aveva, sì, certo, sì, aveva, certo. Lui con AD&D 28B lo aveva fatto prima di possedere il 2 Plus, quindi aveva la prima revisione dell'Apple 2, no? Che poi ha subito scartato per prendersi quella, insomma, la nuova, un po' come facciamo noi con i cellulari. Scusa, nell'80 esce Akalabet, e Ultima invece in che anno esce? Ultima esce nell'81, l'anno successivo. Nell'81, sì. Che è poi un gioco totalmente diverso, poi, fondamentalmente. Sì, è diverso perché, come dicevo, Akalabet allora è un gioco diverso perché l'unica cosa che eredita da Akalabet sono è il motore grafico dei dungeon scritto in Basic, è proprio l'unica cosa, perché poi per il resto è un po' tutto diverso. Ma dobbiamo fare un passo indietro, cioè col Basic Garriott, insomma, si era trovato a sfruttare tutto lo spazio, tutta la memoria, tutte le risorse che aveva, e aveva anche un programma pure lento, fra l'altro, e questo l'abbiamo già detto. Ma per esempio una cosa che aveva dovuto mollare da parte è che D&D 28 salvava, aveva la procedura di salvataggio, cioè quando lui programmava sul suo PDP 11 lui aveva inserito una procedura di salvataggio, lo sappiamo perché ci sono gli stati, li abbiamo visti, si leggono, e lui salvava lo stato del gioco, per cui poi era possibile riprendere il gioco e andare avanti. Quando si è messo a programmare sull'Apple 2 si è reso conto che non aveva lo spazio per poter caricare il sistema operativo per fare pure i salvataggi, al di là del fatto che non aveva ancora floppy, l'ha comprato dopo, però se anche avesse voluto non avrebbe potuto. Quando poi infatti ha preso l'Apple 2 Plus e aveva quindi anche il suo bel floppy, comunque si è reso conto che per liberare la memoria che gli serviva per fare la routine di salvataggio doveva riscrivere parte del gioco, non aveva tempo, c'era Alvin Reimer che gli alitava sul collo perché voleva partire questo gioco e venderlo, e quindi è uscito così. E siccome non c'era la procedura di salvataggio, che cosa si è inventato? E non c'era spazio per inventare un mondo di gioco, cosa si è inventato? Ha fatto più o meno quello che in tanti all'epoca facevano quando non c'era abbastanza spazio, cioè ha inserito una routine di creazione procedurale del mondo pseudo casuale, perché in realtà se tu inserisci ti chiede il lucky number quando avvia Akalabet, che di fatto non è altro che il seed di questa procedura, per cui se tu inserisci un certo numero alla partita successiva inserisci lo stesso numero, ti trovi il mondo tale quale alla partita precedente. non solo il mondo, persino i mostri scompaiono nello stesso ordine, nello stesso posto, gli stessi mostri. Per cui è come, non so, vedete quei classici film dove c'è un tizio che alla fine della giornata, se muore o se si addormenta, riparte dalla mattina e sa esattamente quello che succederà, poi finisce per salvare il tizio che sta per essere schiacciato dalla macchina, arrivare tempestivo. Ecco, giocare a Calabet vuol dire questo sostanzialmente. Tu sai il giorno della marmotta, questo Majora's Mask per Nintendo, però beh, ci sono tanti di film che hanno questa sì, sì, no, Carmine sta citando un videogioco, se non sbaglio, sì, giusto, no, la Majora's Mask della serie Zelda si basa su quello, di questa giornata che si ripete in continuazione e Link di volta in volta sa dove saranno i personaggi, quindi può fare determinate azioni, salvare qualcuno, favorire un incontro o interromperlo. Magari è stato ispirato proprio da Calabet, oddio. No, in realtà mi sembra Undertale. Il creatore di Undertale, mi sta sfuggendo il nome, ha detto che l'ispirazione del per il fatto che il mondo, se riprendi il gioco, mantiene memoria di quello che hai fatto, però alcune cose si resettano, venisse proprio da quel tipo di giochi che ricominciavano sempre uguali volta per sempre volta. Uguali. Va bene. Sì, ci sono tanti esempi comunque di giochi così. A me viene in mente anche River Raid, che aveva al suo interno un algoritmo di generazione pseudo casuale, i livelli forte. Sostanzialmente erano sempre gli stessi, l'unica cosa che cambiava era 4K, magari... quello era 4K, esatto. Di gioco, quindi allora magari ti sarà messo no 4K di risoluzione. Vabbè, oggi si chiama si chiama generazione procedurale, no? Oggi va tanto di moda sto termine qua. Ai tempi era un passo obbligatorio, se tu non avevi abbastanza spazio per disegnare il mondo, lo dovevi far disegnare da una formula matematica. Certo. Che ripeto, è anche questa è un'idea che non era del tutto sua, e comunque aveva già sperimentato, perché anche Star Trek di Mayfield funziona così. Ogni volta che lo avvii, genera la mappa spaziale con i Klingon in un certo posto e così via, no? Lui aveva, come tanti programmatori, sviluppatori di giochi, alla fine lui ha guardato quello che avevano fatto gli altri prima di lui, si è studiato il codice, ha guardato un po' quali erano i trucchetti utilizzati e poi li ha smontati, li ha ricostruiti a proprio vantaggio, con il proprio progetto in testa. Con Calabet è così, cioè il gioco è abbastanza difficile, diventa semplice una volta che tu sai esattamente dove troverai la città, dove troverai i mostri, dove starà la porta, il muro magico, che sembra che c'è il muro, in realtà puoi andare nella stanza accanto e così via. Addirittura la Calabet c'è un amuleto che in certi casi ti trasforma in rana e ti toglie tutte le abilità, tutte le caratteristiche, te le resetta. Se invece fai il tiro fortunato, ti trasforma in uomo lucertola e ti duplica tutte le statistiche, tutti gli attributi, no? Però lo puoi fare più volte, per cui se tu sai esattamente quando è il tiro di dadi che avrà successo, tu puoi trasformarti in uomo lucertola 20 volte di fila e finire il gioco con una passeggiata, cioè vai giù nell'ultimo livello, prendi il Baron, si chiama così davvero, citazione. Sì, sì. Si è capito che l'hai giocato alla morte, ho capito, Andrea. Vabbè, poi il Baron ritorna più o meno, diciamo, in tutti, se no quando non arriviamo più alla fine della punta, finisce alle 3 di notte questa puntata. Ma comunque vedo che in chat non fanno domande, ma fanno già complimenti, quindi sì. Sono morti, li abbiamo stesi. No, però fanno chat di Spreaker. Sto guardando. Ragazzi, ma quale Spreaker? Da quando è che andavo su Spreaker? No, su Telegram. Noi, quando mai? Su Telegram, sì, scusa. Di Runtime, in realtà, c'è giustamente, essendo... Ricordiamoci, cioè, diretta Runtime Radio. Diretta Runtime Radio, sì. Diciamo che essendo Telegram abbastanza completa, voglio dire, la dissertazione fino adesso, in realtà poi la gente si limita a fare complimenti, altrimenti se ci fossero state domande ve le avrei detto, insomma, quindi... possiamo... No. Comunque, fermo restando, come ho detto ad Andrea fuori onda, che se arriviamo a un certo punto possiamo sempre dividere poi l'episodio e tornare a fare la seconda parte. Cioè, senza come secondo problema. Libro. Io faccio sempre la battuta e lo dico sempre: c'è così tanto da dire che ci si potrebbe fare due libri, no? Chissà chi l'ha fatto. Vabbè, però tu vedi tutto l'arco della saga. Noi, in realtà, poi alla fine, essendo archeologia informatica. E archeologia videoludica, scusa, sì, ci fermiamo in quello che è il contesto, insomma, secondo me già oltre il Commodore 64 è già roba moderna, insomma, per noi, come dice giustamente Carlo. Però vabbè, dai, scusa. Assolutamente. Continuiamo. Vabbè, sì, comunque, no, arriviamo all'uscita di Ultima. Ultima 1 invece è diverso, perché in Ultima 1 lui lo disegna il mondo, lo disegna a mano. Il mondo non è più generato a caso, ci sono le città dove vuole lui, e le città hanno un nome, e le città non sono tutte ugualissime, sì, sono abbastanza simili, però non sono tutte ugualissime, perché c'è la città che ha la spada in vendita e quella che ha il martello, per esempio, c'è quella che ha la corazza di pelle e quella che ha la corazza la plate mail, no? Per cui il giocatore è incentivato ad esplorare, perché non è più un mondo, insomma, a caso in base al tuo seed, e ogni volta vai dove ti torna comodo. In Ultima 1 esplori, giri, ci sono diversi dungeon, ci sono i punti di interesse, e poi alla fine il gioco comunque ha i suoi limiti, perché in parte basic, in parte assembly, e soprattutto Garrett non aveva ancora un'idea precisa. Però c'è più gioco di ruolo, non si tratta più soltanto di prendere ammazzate i mostri in un dungeon e uscire. In Ultima 1 ci sono delle missioni, c'è gente che c'è da esplorare, c'è gente che ti dà delle missioni, una missione da compiere, c'è una storia che prima in Calabria non c'è. Uno per Apple 2, esatto, esce nell'81 sempre per Apple 2, la sua grande sotto passione, l'etichetta sempre da computer, della California Pacific Computer Company, esattamente. Ha un successo ancora superiore. Ancora superiore, tant'è vero che traina il successo di Akalabeth, nel senso che Garrett, quando dice che ha venduto 30.000 copie da Rai di Akalabeth, probabilmente si confonde. Siccome Ultima 1 in un pacchetto venne rilasciato unitamente ad Akalabeth, probabilmente lui li mette insieme, queste due cose qua. Perché oggi come oggi, Akalabeth, l'abbiamo detto prima, è uno dei giochi in assoluto più costosi, più ricercati e più ambiti dai collezionisti. Le 12 copie di Computer Land sono andate tutte perse, tranne le due che Garriott è riuscito a conservare, è riuscito a ricomprare indietro. Ha contattato i tizi che gli avevano preso. Diciamo che è anche vero che gli americani sono abituati a raccontare la storia un po' come se la ricordano loro, quindi insomma non ci stupisce. Sì, ed è per questo che c'è la gente come Andrea che scrive libri, insomma, fa ricerche. Sì, beh, la storia che avete sentito stasera non è come l'ha raccontata Garrett, ma come l'ho raccontata io, ve l'ho già cambiata. Sì, assolutamente. Garrett si sarebbe preso molti più meriti in tutta questa storia. Ho fatto tutto io, sono tutto bravo io. No, sono quelle, PR101-102, quelle underscore from ISO. Cosa succede? Ok, Puccio? Allo? Sì, scusate, risolto. Ok, no. Diciamo stacca il microfono. Non rispondere a questa domanda. Non era partito il mute, non so perché. Ok, va bene. Comunque underscore qualche cosa, tutto a posto. andiamo avanti. E quindi in Ultima 1 abbiamo anche una missione, c'è una storia. Questo è un passaggio avanti. Cioè, abbiamo un mago, Manden, che ha creato la gemma dell'immortalità. Quindi ragazzi, è immortale, è inutile che insistete. Però se fate tutta una serie di missioni potete trovare, e poi liberate anche una fanciulla da un castello, e questa vi dirà dov'è la macchina del tempo. Voi direte: macchina del tempo, cosa sta succedendo qua? E poi per usare la macchina del tempo dovete prima abbattere diversi caccia TIE Fighter, c'è anche una sequenza spaziale di combattimento, e voi vi direte: che sta, se c'è, mi sono perso qualcosa, mi direte. No, è proprio così. Infatti è un'epica avventura fantasy e di fantascienza. Sì, ma infatti Ultima è bello per questo, perché c'è dentro un po' di tutto quello che era nella sua testa, poi alla fine, no? C'è lo spazio, vi dovete ricordare che è figlio di un astronauta, appunto. E c'ha il pallino, lui di tornare nello spazio, ha vissuto alla NASA praticamente, quindi. Garrett nei primi anni programma e sviluppa giochi d'impulso, proprio a sentimento. Lui pensa cosa potrebbe piacere ai miei giocatori, che cosa li diverte, liberare una fanciulla da un castello, ma è divertente, mettiamocelo dentro, la macchina del tempo è proprio figa come idea, facciamolo. Abbattere i TIE Fighter in una sequenza di combattimento spaziale, perché no? Insomma, cioè, io ce lo metterei dentro. Ma questo forse è un po' quello che diceva prima Carmine sul fatto di quanto abbia influenzato essere stato un Dungeon Master, diciamo, no? Ma infatti all'inizio della sua carriera lui è molto influenzato dal mondo circostante, poi a un certo punto matura, mette la testa a posto e decide che vuole creare giochi e lo vuole fare seriamente, e come dicevo il passaggio è Ultima 4. Da quel momento in poi si vede che c'è una ricerca spasmodica e molto molto ben diretta per creare mondi sempre più verosimili, sempre più complicati, sempre più non bianchi e neri, ma con tutte le sfumature di grigio possibili. Sì, però qua sei saltato dall'ultima 1, il 2, il 3, sei passato direttamente al 4. Sì, è da lì che c'è lì tanto che, da dire in mezzo. Tanto nel frattempo, chissà se ce la faremo mai. No, diciamo che, ecco, magari mi piacerebbe almeno quello che vorrei sentire io raccontare, poi dopo magari anche Simone e gli altri possono dire la loro, ma a me piacerebbe capire bene e che tu raccontassi come è successo che dal successo di Ultima 1 per Apple 2 lui dopo succede quello che succede e Ultima diventa il gioco multipiattaforma che tutti conosciamo e la Origin, cioè cosa succede in quel momento lì, cioè, esattamente come avviene questo passaggio? Beh, il primo passaggio è la Sierra Online, perché la California Pacific abbiamo detto che è un'azienda per cui non ha le risorse, a malapena ha le risorse per pagare Garriott, Bill Budge, due o tre segretari e mandare in giro le scatole per gli Stati Uniti, non ha neanche la catena di distribuzione. Garriott si rende conto a un certo punto che le sue ambizioni, le sue capacità purtroppo sono un po' sprecate là dentro, ha bisogno di qualcuno che lo sappia valorizzare. In particolar modo si innamora del packaging dei giochi della Infocom. Sì, e vorrebbe fare altrettanto. La California Pacific non ha i soldi per fare una roba così, e allora si mette un po' sul mercato, si guarda attorno, e il candidato ideale in quel momento è la Sierra, perché la Sierra è una realtà aziendale guidata da una persona estremamente capace, Ken Williams, un imprenditore che ha un fiuto per gli affari spaventoso. Attenzione, farà anche lui i suoi belli errori, ma chi non li fa nel 92, nell'82, chi non fa errori nel Nord America quando hai a che fare con l'industria dei videogiochi? Sì, sì, lì si sperimentava tantissimo, era tutto un prova e vai. La Sierra Online è una realtà in esplosione, con dei tassi di crescita incredibili, sforna un successo dentro l'altro. Sua moglie Roberta Williams non sbaglia un colpo, quando fa un gioco fa un capolavoro e i soldi piovono, insomma, a catinelle. E quindi il candidato ideale è la Sierra. Quando le cose non vanno più tanto bene con Alvin Remmer, perché la compagnia, insomma, sta un po' indietro con i pagamenti, Garriott si sfila e basta, chiude i rapporti e va, si mette sul mercato, e Sierra li conosce a una delle tante fiere. Lui ci va vestito da cavaliere medievale con la corona in testa, Ken Williams ci va in doppio petto, c'è una foto bellissima di questa conferenza in cui fanno la foto insieme, è il momento in cui praticamente decidono che faranno qualcosa assieme e fanno anche una foto oltre a decidere di fare qualcosa insieme, e li vedi uno vestito tutto bello tirato, l'altro vestito da cavaliere medievale, e lì succede qualcosa, decidono di facciamo che cosa, qual è la scintilla che Garriott vuole le risorse per fare un packaging alla Infocom. Ha in mente di fare una cartina del suo mondo, perché vuole fare qualcosa di grandioso. Si è innamorato di un film dei Monty Python, non proprio dei Monty Python, un film dove compaiono i Monty Python, Time Bandits, nel quale hanno in mano una mappa. Lui dice di racconta di entrare più volte nel cinema per vedere questa mappa nei pochi fotogrammi in cui la mappa è mostrata e la scribacchia, poi dopo alla fine in realtà questa mappa serve poco all'interno del gioco. Stiamo parlando del futuro Ultima 2, e insomma vuole mettere dentro questa cartina nella scatola. Un sacco di soldi costa. Ken Williams però, insomma, con una ditta che esplode, si finisce per spendere un po' più di quello che si dovrebbe e dice di sì. È lì il momento in cui il gioco inizia ad essere un po' di massa, perché è vero che l'Apple 2 è una piattaforma fortunata, però insomma nel Nord America ci sono anche altre piattaforme che vendono altrettanto, sono addirittura di più. Nell'82 il VIC-20 ha venduto 1 milione di pezzi in tutta la, esatto, quindi poi c'era il Texas, c'era l'Atari 800 che ormai era in vetta alle vendite, insomma c'erano tante altre piattaforme, e poi nascerà il Commodore 64 ovviamente. Limitarsi solo all'Apple 2 insomma vuol dire rinunciare a una bella fetta di mercato, però lui è uno il solo. Il PC IBM c'era, del IBM che era uscito nell'80, e con i PC IBM tutto che tasto dolente, perché adesso vedrà come cambierà la storia di questa, esatto. Come diventeranno fosche le tinte di questa storia che racconto grazie al PC IBM. Fatto sta che comunque Garrett è anche uno da solo, poverino, che deve fare? Deve fare il gioco base, poi lo deve fare anche il porting su tutte le 45 piattaforme che ci sono in giro. C'è anche l'Atari, la serie 400 800, c'è di tutto, il mercato è enorme. A coprire tutte le piattaforme ci vuole un team. Chi ha un team? La Sierra. Quindi si mettono a lavorare insieme. Ken Williams deve rinunciare a un bel po' dei soldi che si può guadagnare vendendo ogni singola scatola del gioco, perché dentro la scatola ci mettono un sacco di gadget, e ci mettono le monetine, e ci mettono la mappa e tutto il resto. Garrett è contento e si mette a programmare il suo secondo gioco della serie di Ultima, ancora più complesso, ancora più ambizioso, tutto scritto in assembly, insomma. Era pure ora, era ora, era pure ora. Fatto sta che quando lui finisce di fare il gioco è pronto siamo tutti pronti perché succeda questa cosa. Sierra ha i soldi per pagare, e ha i programmatori per fare le altre versioni per le altre piattaforme, esatto. Per far conoscere il titolo di Ultima. E qua succede patatrac, casca l'asino. Siamo tra l'82 e l'83. Sierra si rende conto che abbiamo prodotto un sacco di giochi in cartuccia e le cartucce non le vuole più nessuno. Abbiamo prodotto un sacco di giochi per piattaforme che stanno morendo, tipo VIC-20. Abbiamo anche Mandrash, l'abbiamo prodotto, ma accidenti, chissà se riusciremo mai a venderne qualche copia. E poi quel Mandrash l'hanno prodotto così perché avevano il marchio Ultima e volevano sfruttarlo alla fine. Era un periodo di eccessiva fiducia, cioè produciamo tutto, tanto il mercato è in grado di assorbire qualunque cosa, no? Però non è così, il mercato ha un limite, e quando poi il limite si raggiunge c'è il tracollo, e così è successo. E anche Sierra tracolla, e per poco non vanno a gambe all'aria pure loro, iniziano a tagliare a destra e a sinistra, e una delle cose brutte che succedono è che tagliando di qui e di là pestano di nuovo i piedi a Garrett e non gli pagano per tempo i diritti dei giochi che ha venduto. Mai fare questa, Garrett. Altra cosa brutta, brutta che succede, quei soldi ci vanno puzza subito. Ah sì, sì. Vabbè, giustamente comunque. No, è chiaro. È vero pure che se avesse, diciamo, ristretto un po' le pretese, no, su questa questione del packaging, un po' maniacale, no, un po' megalomane, diciamo, però, da questo punto di vista. Però perché sono passate la storia questi giochi? Perché c'erano questi packaging, cioè, altrimenti sarebbero state solo altre avventure, secondo me, almeno all'inizio quantomeno. Uno dei momenti più bassi li si ha quando a Ken Williams dicono: che ne dici, facciamo il porting per l'IBM PC di Ultima 2? E che Williams, che non aveva fatto un contratto apposta per questo con Garrett, perché nelle clausole del contratto non aveva inserito questa possibilità, che insomma è arrivata all'ultimo minuto, va da Garrett e dice: guarda, prendere o lasciare, se ci stai facciamo il porting e ti do poco, una miseria, se non ci stai non lo facciamo proprio e non ti do niente. Garrett firma malincuore e se la segna, e come se la segna ora Garrett non se la segna nessuno, che non è uno che, cioè, è buono, gentile, è una persona affabile e tutto, però non è una di quelle persone che poi ci passano sopra, ecco. Per cui firma e poi decide che lui con Sierra ha chiuso, e quindi pensa di andare a fare tutto da sé. Fra l'altro il suo fratello Robert Garrett, che ha studiato al Massachusetts Institute of Technology, ma il lato business del Massachusetts Institute, suo fratello, che ha lavorato anche per la Texas Instruments, insomma ha un sacco di esperienza in campo di aziende tecnologiche ed è un manager nato, dice: guarda, forse ce la facciamo. Se tu continui a fare dei giochi buoni, io mi invento qualche modo per fare una compagnia e facciamo da soli. Si mettono a fare da soli, lui si inventa il nome Origin, il fratello si inventa il logo, il motto, We Create Worlds, noi creiamo i mondi. Che poi è forse uno dei motti più coerenti da un certo punto di vista, perché alla fine quello hanno fatto, no? Ah sì sì, quello hanno fatto, e poi si tengono fede al motto e iniziano a scalare i mondi, e qua siamo arrivati finalmente al nostro ultima 3, Exodus. Stiamo bruciando le tappe adesso, veloci, perché insomma altrimenti ci rimaniamo. L'ultima 3, Exodus, è la nascita delle Origins, praticamente, della Origin. È il primo capitolo di Origin. È ancora un titolo di mezzo, nel senso che infatti è considerato l'ultimo episodio della prima trilogia, i primi tre capitoli, l'1, il 2 e il 3, e poi arriverà la seconda, insomma la seconda trilogia 4, 5, 6, mentre la prima Age of Darkness, la seconda Age of Enlightenment, e poi dopo Age of Armageddon, che sono i titoli 7, 8 e 9, quelli del guardiano. Scusami, come si dice? Il nome Origin e il logo Origin hanno qualche chicca, qualche curiosità nella loro creazione? O... Sì, il logo Origin, il nome Origin è un'idea di Garriott, ma non ha mai saputo spiegare da dove venisse fuori, forse dal fatto che era l'origine, insomma, il punto di partenza della sua, del suo cammino da solo, diciamo. Poi in realtà le compagnie successive un senso ce l'hanno tutto alla luce del primo nome, perché per esempio quando a un certo punto lascerà Origin perché l'ha venduta ad Electronic Arts e Electronic Arts non lo vuole più e lo licenzia, fonda Destination Games. D'altra parte, dall'origine tu vai alla destinazione. No? E poi quando Destination Games viene venduta a NC Soft e fonda una nuova compagnia, la chiama Portalarium, perché d'altra parte se tu parti da un posto e arrivi alla destinazione, se sei un fan di Ultima ci devi passare attraverso un portale, no? Altrimenti non ha senso. E quindi tutti questi ma fra l'altro un altro gioco di parole è che il primo capitolo della serie di Ultima scritto da Garriott con Origin si chiama Exodus, ma guarda caso lui aveva appena lasciato la Sierra Online. Lui nei nomi e dei personaggi, nelle vicende che racconta, lui ci butta sempre tanto della sua vita, delle cose che gli succedono, e spesso si fa burla delle persone che gli hanno arrecato danno o con le quali ha avuto degli screzi, tra cui Trip Hawkins, il fondatore di Electronic Arts, viene preso in giro un sacco di volte all'interno dei vari Ultima, perché non corre buon sangue tra i due. Si sa. Sì. Ma invece quel logo strano, il logo, allora il primo tridimensionale. Logo, allora quel logo lì è una rivisitazione, ma ci si arriva per caso, nel senso che loro inventano il nome ma non inventano il logo, loro commissionano una pubblicità, proprio danno carta bianca a una rivista, penso che fosse Soft Talk, potrei sbagliarmi, hanno appena iniziato, vogliono pubblicizzarsi, chiamano Soft Talk e dicono fammi una pubblicità a pagina intera su questa rivista, la mia azienda si chiama Origin, noi facciamo giochi di ruolo, siamo belli, siamo in gamba, siamo giovani forti, volenterosi, un sacco di idee e cerchiamo nuovi talenti. Non era assolutamente vero, non cercavano talenti, però il dottor Cat legge l'annuncio, si piglia l'aereo, va là convinto che lo assumeranno, purtroppo non lo assumono, torna a casa. Fatto sta che la prima vittima della prima pubblicità è di R. Cat. Fatto sta che comunque loro commissionano una pubblicità e quelli di Soft Talk, i grafici, non sapremo mai in base a che cosa, si inventano sta bussola. E che è il primo logo e compare una volta sola, solo su questa pubblicità, e mettono la bussola e la mettono accanto a Origin. Fatto sta che questa scelta poi di fatto viene inglobata in quelle successive, perché quel logo tridimensionale di cui parli tu, quello leggermente inclinato, è una cartina, carta millimetrata con i segni cardinali, e quindi riprende, è arrivata dalla bussa, certo, e poi a un certo punto quando compare il terzo logo, quello delle due onde con la stella al centro, abbiamo di nuovo il segno della bussola, la stella con i quattro segni cardinali, e le due onde, quei due segni grafici tipo il segno dei Gemini, il segno con i gemelli, sì, tipo gemelli, però riprende la forma ovale della bussola del primo logo. E poi si arriva al logo di The Client di Electronic Arts Origin, che è ancora un ovale stilizzato, ma è la ripresa del logo di Origin, che è la ripresa della bussola e così via. Insomma, è così. Di passaggio. Ma tutti a caso, eh? Vabbè, a caso, però sempre derivati da un'idea iniziale. Però Carlo, quello che tu non sai, e che chiaramente sono fonti, insomma, che ho rimediato io studiando, cercando, insomma, che la Origin già fa ridere che la Origin passerà alla storia, anzi è passata alla storia, perché aveva un accordo massonico con Intel. Voi non lo sapete questo, chiaramente, perché ogni volta che usciva un gioco nuovo della Origin ti dovevi comprare il computer nuovo, quindi dovevi comprare un nuovo processore e via dicendo. C'è uno st'accordo con Sony. Oh, io mi ricordo, era tipo il come adesso si dice, ci gira Crisis. Esatto, no. Bravo, bravo, esatto. Allora, che è uscito il nuovo gioco della Origin, ma ce va sul computer mio, perché insomma era quello. No, veramente ragazzi, c'è stato un periodo che ogni volta che facevano uno step era veramente antenna all'otto, sapesse, ovviamente era antenna all'otto per noi che compravamo i giochi piratati, insomma, diciamoci anche un po' la verità, perché insomma, se no uno andava a vedere le famose specifiche, no? Però cioè, mi ricordo con diversi giochi, insomma, ho avuto questo problema ogni volta che uscivo. Era anche un periodo, era un periodo così quello, cioè non era solo la Origin, no, era, no, sì, lo so, però gli anni in cui cambiavi il PC ogni sei mesi. Però mi faceva ridere questa cosa, perché cioè tu giocavi a Wing Commander 1, se usciva Wing Commander 2 basta, cioè dovevi buttare tutto, cioè, quindi era, vabbè, comunque al di là è stata una digressione stupida, è una cosa che mi è sempre rimasta da quando ero ragazzino, no? Cioè ogni volta che usciva un gioco dovevo andare a comprare il computer nuovo, insomma, vabbè, questa è un po', quindi alla fine se non spendevi i soldi nel gioco perché lo prendevi pirata, però spendevi i soldi in computer, quindi alla fine i soldi sempre li dovevi spendere, insomma. Prego. Vabbè, comunque siamo arrivati a un punto che è la nascita della Origin, l'uscita di Exodus Ultima 3, la fine della prima trilogia, e da lì, come stava iniziando a dire Andrea, Garriott che dice da oggi faccio i giochi seriamente, perché prima li aveva fatti scherzando, tra virgolette, nel senso che comunque dice mi impegno di più, ecco. Beh, diciamo che c'aveva un motivo più strettamente legato a se stesso per far sì che questi giochi fossero fatti più seriamente. Da quel punto di vista, sì, anche in realtà i motivi sono due. Il primo motivo è che se non faceva bene i giochi, ci metteva dentro i suoi soldi. Esatto, a questo giro, esatto. Non era la compagnia di qualcun altro che finiva in cattive acque, era la sua, esatto. Erano i suoi risparmi, era tutto quello che aveva guadagnato, l'aveva messo sulla bilancia sperando che andasse bene, no? Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che però conosce un'altra persona geniale. L'avevo detto all'inizio, la vita di Garriott, ma come la vita di ogni persona che ha tanta fortuna negli affari, insomma, che compie qualcosa di notevole, è perché ha un sacco di talento, però ha anche parecchia fortuna, e soprattutto da solo certe cose non le avrebbe fatte. A questo giro chi è che incontra? Incontra una persona assolutamente geniale, unica, alla quale non è stato dato abbastanza credito in questi anni. Si chiama Roe Adams III. Era un giornalista, una persona abbastanza spigliata, un appassionato di giochi di ruolo, un appassionato di giochi per computer, uno di quelli che appena Roberta Williams faceva un'avventura, lui subito era il primo a comprarla e di solito, o almeno si bullava, era anche il primo a risolverla, perché stava di giorno e notte finché non arrivava in fondo e poi scriveva lodi sperticate, perché lui era pazzo per le avventure della Sierra Online, no? Era un accanitissimo giocatore, sia di ruolo che di computer. Insomma, una di quelle persone che dovrebbero andare d'accordo con Garriott. Infatti si intesero subito. I due si conobbero perché Garriott nel frattempo si dovette spostare dal Texas al New Hampshire, perché il fratello, che viveva con la famiglia nel New Hampshire, era un po' stufo di dire a sua moglie che lui doveva continuare tutte le settimane a fare avanti e indietro a prendere l'aereo. La moglie le ha detto: guarda, mi sono stufata, adesso vedi di risolvere la cosa. Allora lui chi comanda in casa, come esatto, la moglie. Allora Robert, il fratello, dice a Garriott: guarda, spostati nel New Hampshire, così siamo vicini, io non mi devo divorziare, spostati, ma sarà una cosa temporanea. Ovviamente, come sappiamo, di solito quelle cose temporanee poi diventano praticamente definitive, infatti ci rimane diverso tempo. Fatto sta che spostandosi lì si avvicina a Roe Adams e i due si conoscono. Roe Adams scriveva anche diversi articoli sempre su Softalk o altre riviste di giochi per computer e software per computer del periodo. I due si conoscono. Garriott, che era, questo non l'abbiamo detto finora, faccio un accenno, era membro della società dell'anacronismo creativo, questo gruppo di appassionati medievali che si vestivano da signori medievali, da donzelle, facevano i tornei cavallereschi, si sfidavano, giochi di ruolo dal vivo, insomma. Molto di più, perché loro era proprio una rappresentazione della vita medievale, per quanto fosse possibile ricrearla. Avevano le baronie, avevano tutto un sistema di regole interne e avevano anche un gruppo di combattimento. Lui, Garriott, è entrato nell'SCA, si qualificò come uno dei più abili schermitori di Sciabola, no? Assieme a un altro personaggio che tutti gli appassionati di Ultima conoscono, Iolo, David Watson, il bardo con la balestra, quello col liuto, quello che suona e che compone assieme a sua moglie Gwenno Stones, uno dei motivi più famosi di Ultima. Fatto sta che Garriott introduce Roy Adams alla società dell'anarchismo creativo e Roy Adams, per ringraziarlo, gli dà una mano a scrivere il manuale di Exodus. E poi, già che c'è, gli dà anche una mano ad avere nuove idee per andare oltre. Ecco, è Roy Adams uno dei motori di questa maturazione, che poi dopo tra i due il connubio dura una stagione e finisce. Però Garriott poi ha una direzione e la segue fino a titoli come Ultima 7. Fatto sta che Roy Adams, fra l'altro, è una sorta di deus ex machina dei giochi di ruolo per computer, perché in quei due anni in cui lui influenza Garriott per fare quel capolavoro che è Ultima 4, di cui parleremo tra un attimo, lui prende parte a tre dei giochi più importanti in assoluto della storia dei videogiochi, ossia prende parte alla serie di Wizardry, dove suggerisce ai creatori di Wizardry di capovolgere lo schema di gioco. Non è più il gruppo di eroi che deve scendere nelle viscere della terra per sconfiggere il cattivo, è il cattivo che ne ha appena preso un sacco, è stato battuto e si trova nelle viscere della terra e deve emergere, quindi deve salire e sconfiggere tutti quelli che gli fermeranno, lo vogliono fermare perché non vogliono che lui esca da lì. Idea di Roy Apex, giusto? Wizardry, aspetta, no, Apex, stiamo parlando di Temple of Upshire, no, Temple Wizardry è della Creative Computing. Ah, della CC, sì, giusto, la Creative Computing. Sì, quindi Wizardry, lui viene coinvolto e inserisce il suo personaggio preferito di giochi di ruolo, quello che crea nelle sue campagne di Dungeons & Dragons, stiamo parlando di Hawkwind. Il suo personaggio lo mette dentro in Wizardry come il solito deus ex machina che a un certo punto compare e ti spiega un paio di cose, poi diventa anche un nemico volendo. Poi collabora con Garriott per Ultima 4 e c'è l'inversione anche in Ultima 4, cioè fino a quel momento tutti gli Ultima erano basati sull'archetipo del c'è un cattivo da sconfiggere, tu sei lo straniero in un altro mondo, il mondo è in pericolo, salvalo. Con Ultima 4 cambia tutto, il mondo non è in pericolo, ma proprio per niente, il mondo sta bene, ma tutto abbastanza bene, le città sono floride, la gente è ben pasciuta, addirittura stanno così bene che hanno la possibilità di star lì a filosofeggiare, ossia si sono inventati un sistema di virtù e ci vuole qualcuno che però insegna queste virtù a tutti e per farlo le deve incarnare, quindi deve dimostrare di essere il top del top in tutte le 8 virtù di Ultima. Fra parentesi, le 8 virtù le inventano insieme Roy Adams e Garriott, ed è difficile stabilire chi dei due ha una spinta propulsiva in più dal punto di vista creativo. Sicuramente collaborano insieme, poi però c'è la rottura tra i due e da quel momento in poi Roy Adams si eclissa, rimane solo Garriott, e quindi sembra quasi che le abbia inventate lui da solo, ma non è così, perché ci sono delle interviste dell'epoca nelle quali i due compaiono intervistati insieme, dicono sì, abbiamo inventato un nuovo sistema, il sistema delle virtù, questo sarà un gioco diverso dagli altri, qua non si tratta di sconfiggere un cattivo, fare un sacco di combattimenti, fare i livelli, ammassare tesori e abbattere l'ultimo cattivo, il più potente di tutti, qua si tratta di essere i migliori nel valore, i migliori nell'umiltà, i migliori nel coraggio, i migliori nella compassione e così via. Qua è un gioco filosofico, è un salto di livello. Vedo Simone che si ricorda questo, sì. Che fa sì con la testa. Sì. Vabbè, poi nasce la questione dell'avatar, no? Poi alla fine, quindi. Cioè, comunque le virtù sono, poi diventano da lì in poi un caposaldo, insomma, della saga di Ultima. la base, l'ossatura dei giochi di Ultima, ma è nata lì, è nata nel 4, per quello sì, che sì. Lo stacco. Appunto, dico, da lì in poi diventerà. Dove l'hai giocato il 4 tu, Simone, per curiosità? No, io il 4 non l'ho giocato. Giocato, non l'hai giocato? No, non ho giocato il 4. Io l'ho conosciuto dopo Ultima. Io ho il 5, il 6 e il 7. Sua amica. Il 7 su PC. Il 7 solo su PC. Il 5 l'hai giocato su Amiga? Penso di sì, penso di sì. Mi sa di sì. Quasi tutti in Italia da noi l'hanno giocato lì. Poi dopo sono passati al PC subito dopo. Perché il 6, io pure il 6 mi sa che era più su PC. Il 6 era già su PC. Sì. E vabbè, c'ho... Sì, 6 è il passaggio. E comunque per concludere su Roy Adams, giusto perché altrimenti lo lasciamo lì a metà e non capiamo quanto importante è stato. Giusto perché uno potrebbe dire, ma come mai c'è Scarabre in Ultima? Perché Scarabre era un villaggio del Neolitico in Inghilterra, riportato alla luce alla fine dell'Ottocento da una tempesta, e lui, Roy Adams, era affascinato da questo villaggio del Neolitico, che era molto di voga negli anni 70, perché lo stavano scavando, si stavano scoprendo un sacco di cose interessanti, per cui lui aveva creato questo personaggio Hawkwind, come dicevo, e il suo personaggio nei suoi giochi di ruolo era Hawkwind di Scarabre, perché veniva dalla città di Scarabre, no? E quindi lui, quando ha aiutato i tizi di Wizardry, ha messo dentro su Hawkwind. Quando ha aiutato Garriott, ha messo dentro Hawkwind, anche in Ultima. Infatti Hawkwind poi diventa il Time Lord, niente poco di meno che, cioè, stiamo parlando di quell'essere leggendario che arriva a un certo punto, risolve tutto dicendo, ti spiego io, ti faccio lo spiegone, ti dico cosa sta succedendo. E c'è una Scarabre anche in Ultima. E tanti dicono, come mai c'è una Scarabre in Ultima? Ma soprattutto, come mai c'è una Scarabre anche in Bard's Tale 3? In Bard's Tale, scusate, il primo, perché contemporaneamente Roy Adams era contractor anche per la come si chiama? No, Electronic Arts, accidente, vuoto di memoria, la Interplay, per la Interplay. Bard's Tale di Fargo. Bard's Tale era da Interplay, sì, che poi è stata acquisita dall'Electronic Arts. Esatto, ma ai tempi era autonoma, era la Interplay fondata da Fargo, il programmatore era Crawford, del primo Bard's Tale, chiamarono come contractor, come consulente Roy Adams, e Roy Adams disse, ambientiamo Bard's Tale in un villaggio di nome Scarabre, tanto per cambiare. Ecco, per tutti, insomma. Sì, però stiamo parlando di 3 degli RPG per computer più importanti della storia. Sì, appunto, per e lui ha messo lo zampino in tutti e 3, proprio nel momento più alto di tutti e 3 i capitoli. Insomma... Quindi. Va bene, Simone, abbiamo qualche domanda fino ad ora? Allora, no, continuano, a parte le conversazioni fra di loro, vabbè, perché poi prima abbiamo citato il fatto che delle rappresentazioni della vita medievale, noi salutiamo anche Leo Vargion che tra di noi è quello che fa proprio le battaglie medievali, con lui c'ha la sua spada, una spada vera, insomma, però senza filo, chiaramente, però è una spada vera. E vabbè, insomma, lui conosce bene un po' questi, perché anche in Italia si fanno molte rievocazioni, ma non parlo di giochi di ruolo, parlo proprio di cose fatte molto più seriamente, dove poi sì, anch'io avevo simulato una cena medievale, esatto, poi simulano queste battaglie dove in realtà poi se le danno per davvero, cioè quella è la cosa bella, e quindi quando vai a vedere questi eventi senti proprio il fragore della battaglia, così come sarebbe stata, insomma, più o meno all'epoca. E poi continuano i complimenti, insomma, cioè puntata spettacolare, ma questo, insomma, ce lo aspettavamo, diciamo, da questo punto di vista, quindi diciamo che sono tutti sotto shock, non c'hanno la domanda. Puccio c'è ancora oppure ti hai lasciato senza parole? Certo, Puccio è morto. Ah, okay. No, ci sono. No, okay. Ma ci sono. Puccio, se vuoi aggiungere tu qualcosa, niente. Così io direi che possiamo mettere un limite qui. Cioè, nel senso, sì, siamo arrivati a un punto per iniziare la prossima puntata. Esatto, esatto. Poi ci organizziamo con. Scusa, Puccio, dicevi? No, dicevo, secondo me è troppo vasto per una puntata sola. Sì, infatti, intanto ti cerca la polizia, sento. Sì, la polizia sempre. No, è il telefono di mia moglie. Scusate. Ok, va bene, dai, io direi che. Mettiamo appunto un limite qui e ci riorganizziamo magari per fare una seconda parte, perché chiaramente la saga è ampia e lunga, e sicuramente anche di questa prima parte che abbiamo raccontato abbiamo saltato parti magari importanti, però purtroppo poi riuscire a condensare non è facile, insomma, all'interno di un podcast, una trasmissione live o non live che sia, chiaramente cercheremo solo di riorganizzarci. Poi ho visto che il tema è piaciuto ed è piaciuta proprio la puntata, quindi questo mi fa veramente piacere, perché ritornare con archeologia e videoludica, ritornare con un gioco, anzi una saga che è veramente importante per la storia del gaming, insomma, in generale. Carlo. Sì, dicevo, Andrea, vabbè, innanzitutto per gli approfondimenti, per me la puntata è stata anche abbastanza esaustiva rispetto a quello che è il racconto, diciamo, riassunto. È ovvio, sì, che per gli approfondimenti è meglio rimandare al libro. Pubblicità, libro di Andrea, pubblicità ovviamente, che trovate sul suo sito Andrea Contatto. E però, diciamo, Andrea, siamo arrivati a un punto in cui in effetti possiamo dare un'interruzione, dire siamo arrivati all'inizio del successo della Origin e da qui proseguire nella seconda puntata, no? Più o meno, sì. Quindi alla fine della prima trilogia, inizio della seconda vita di Ultima, insomma, ecco, se vogliamo definirla. Sì. Bene, allora, facendo comunque presente che sulle note dell'episodio, quando domani sarà disponibile in podcast, troverete ovviamente i link al sito di Andrea, dove poter poi accedere, insomma, anche alla possibilità di acquistare, appunto, come ha detto, anche col codice sconto a entrambi i libri. E quindi fate, insomma, se volete proprio approfondire ulteriormente questo, che poi alla fine è un'infarinata anche per chi ha voglia poi alla fine di conoscere approfonditamente questo tema, appunto ci sono i libri, comprateli e sostenete anche un progetto poi fondamentalmente che va sempre sostenuto. Detto questo, io ringrazio. Non so se abbiamo delle ulteriori cose da dire, oppure Buccio, tu volevi aggiungere qualcosa? Perché... No, bene così per me, ragazzi. No. Ok, perfetto. Allora, io ringrazio Andrea e ci organizziamo subito nei prossimi giorni per una prossima puntata, magari fra un paio di settimane, insomma, se ci riusciamo, in modo che magari proseguiamo ovviamente con il racconto di Ultima, insomma, della saga di Ultima. Quindi grazie di essere intervenuto e grazie di averci dedicato il tuo tempo, soprattutto, che di questi tempi è un elemento molto prezioso. Grazie mille a voi, gentilissimi. Carlo, buonanotte. Eccomi. E ci sentiamo. Sì, quali sono? Come ho detto, è stata bella. Sì. E ci rivediamo sicuramente con la seconda parte. Benissimo. Forse anche con la terza. Beh, in realtà poi andremo sui giochi troppo recenti che alla fine sono un po' fuori range. Beh, la saga di Ultima direi di completarla tutta? Poi non so, okay, se parleremo, okay. Ci sarebbe anche da raccontare la Origin in senso lato, però quello sì, veramente andiamo a finire quello sì in 12.000 puntate, perché se iniziamo a raccontare tutto quello che ha fatto la Origin dopo, buonanotte. Beh, comunque su Origin chiaramente ci dobbiamo tornare, perché Origin non è soltanto Ultima, no? Come abbiamo anche citato, insomma, diverse volte in diverse occasioni, questo è sicuramente una cosa. E invece ci sono cose da dire oltre ai prossimi progetti, diciamo che intanto potete andarvi a vedere i video più recenti sul sito, sul canale YouTube di Archeologia Informatica, dove abbiamo pubblicato recentemente dei video. Uno era la seconda parte dell'intervista di Andrea Vavassori, che dopo tipo sei mesi dalla prima parte siamo riusciti a pubblicarla, e poi c'è una bellissima intervista anche ai membri di Retrocampus, quindi Carlo e i suoi associati. Detto questo, poi invece torneremo presto sia con una puntata del podcast Archeologia Informatica, stiamo già lavorando ad altri video per quanto riguarda il canale. Anche questo podcast, quando avrò modo e tempo, cercherò di trasformarlo in un video interessante per il canale YouTube, in modo che ci si possano mettere sul racconto di Andrea anche footage, vari elementi grafici, video che comunque rappresentano, insomma, l'argomento di cui si sta parlando. Vi ricordo ancora di guardare le note dell'episodio, così troverete i link con tutti quanti i riferimenti, che sono la cosa più importante. E detto questo, per quanto riguarda Runtime Radio, invece vi rimando a domani sera, che alle 23.30 sarà Runtime by Night, e invece domenica, anche se ancora dobbiamo definire, insomma, facciamo la solita diretta del 25 aprile, che noi facciamo sempre, insomma, qua su Runtime Radio, giusto per stare un po' in compagnia, soprattutto da quando esiste, insomma, la pandemia. È un modo per stare insieme, raccontare e chiacchierarci tutti quanti insieme. Quindi grazie Puccio, grazie Carlo e soprattutto grazie Andrea, e buonanotte a tutti, grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.